Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan Maria Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti Leonardo Manera, in regia il gatto Peter Pescapè, in redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miriam Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Le scarpe mi stanno strette. È tornato l'inverno. Il pappagallo è rosso. Il vento soffia. L'aquila vola. Leonardo è arrabbiato. La mucca non dà latte. È cessata la pioggia. Cari ascoltatori, siamo qui dalla ridotta di Viale Monza per iniziare una nuova settimana di Uno Nessuno 100 Milan. Ebbene sì, è tornato l'inverno, c'è il vento, mi scrive subito un'ascoltatrice, è prevista una settimana di pioggia, questo ci aiuterà o no con il coronavirus? Non lo so, non sono un meteorologo e soprattutto non sono un virologo, un infettivologo, un epidemiologo e non so, cercheremo di capire, magari risponderà Nicoletta Carbone alle 10.30 nello speciale che farà anche questa settimana dalle 10.30 alle 11 per capire se il brutto tempo, la pioggia, l'inverno che torna su Milano e la Lombardia e il Nord porterà beneficio. Non lo sappiamo. Intanto noi siamo qui dalla diretta, dai balconi di Milano, in remoto. Saluto Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti in redazione. Saluto Danilo Di Trani che ci segue oggi in assistenza insieme all'Alpino in regia. E saluto, ritorno con piacere con noi Raffaele Kohler dai balconi di Milano. Raffaele, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccolo qua Raffaele, la sua tromba ormai è famosa, ogni giorno vogliamo iniziare così con un modo a volte gioioso, a volte Raffaele come credo oggi no, perché bisogna iniziare a pensare che sarà un nuovo mondo. Però sarà un nuovo mondo quando finirà tutto, ma non dovremo dimenticarci di coloro che non ci sono, che non ce l'hanno assolutamente fatto. Sì, assolutamente, li ricorderemo sempre e anche attraverso la musica, ecco. Eh sì, anche perché sono volti, nomi, persone in carne e ossa, spesso l'abbiamo detto salutate senza neanche il saluto estremo, senza i funerali, senza muoiono un po' da soli e questo è brutto. Quindi Raffaele, noi ti abbiamo chiesto alla redazione se oggi puoi suonare il silenzio, no? Assolutamente, sarà un grande onore per me, assolutamente. Sì. È conosciuto credo in tutto il mondo per onorare i caduti, si parla tanto di guerra e quindi questo è. Vai Raffaele, siamo tutti orecchi. Thank you. Raffaele, grazie davvero. Raffaele Kohler, non è un modo, secondo me, voglio il tuo parere, di partire in questa settimana di Uno Nessuno 100.000 in modo triste, è un modo giusto, è un modo onorevole. Ma che ne pensi tu? Modo raccolto un momento. Io penso che anche a volte la musica può essere anche una preghiera personale che uno può fare. Io spesso lo dedico ai miei, appunto, parenti, non ci sono più, pensavo spesso a mio papà, così penso a tutte le persone, mio nonno, tutte le persone che non ci sono più, e penso attraverso la musica è un ottimo contatto per arrivare in contatto anche con le persone. Assolutamente sì. Più vedere, ecco. Sì. Grazie Raffaele Kohler davvero per essere stato grazie con noi e ti aspettiamo nei prossimi giorni, anche domani se vuoi, siamo qua per iniziare. Questo è Uno Nessuno 100 Milan alla grande. E allora, grazie Raffaele, vai Alpino, dai. Enthusiasm about the future. Allora, cari ascoltatori, chiamateci all'800 24 00 24, diteci la vostra al 349 238 6666 con i vostri messaggi, con i vostri WhatsApp audio. Io faccio notare che dopo un mese è finita la Pax istituzionale. Si parlava di collaborazione, di modello italiano, adesso si parla da parte di alcuni politici di golpe da parte del Presidente del Consiglio, si parla di decreti raffazzonati, ci sono perfino i medici che litigano tra di loro, i virologi che diffidano l'infettivologa, è la vicenda, diciamo, Burioni-Gismondo, tanto per capire, a rettificare alcune dichiarazioni. Insomma, mi sembra che ci vogliano nervi saldi e in questo momento ne vedo pochi, comincia in qualche modo ad affiorare un po' di nervosismo strisciante. Io voglio iniziare però con la lettera che Luca, commerciante, mi ha mandato dalla provincia di Bergamo. Mi ha scritto alla redazione e ha scritto: Luca, mi sono reso conto di come muoiono i malati di questo virus da soli e questo è atroce. E in questi giorni di chiusura del mio locale ho continuato a pensare a come ripartiremo e soprattutto se ripartiremo. Ecco, dovremmo immaginare la ripartenza attraverso la sofferenza generata nelle persone. Nel dopoguerra i padri costituenti sono riusciti a immaginare un nuovo paese oltre il proprio credo politico. Questo serve anche ora. Fateci ripartire, dateci una visione, fateci cambiare l'idea che abbiamo su di voi. Pensate a tutti, dipendenti, pensionati, imprenditori, piccoli e grandi che siano. Non dividete come sempre in buoni e cattivi. Avete la grande possibilità di far ripartire un intero paese, potremmo essere modello per tutti, poiché da tutti siamo ritenuti il miglior paese del mondo. Come si può pensare di salvare il lavoro con lo slogan «Nessuno perderà il lavoro per il coronavirus» senza aiutare chi genera il lavoro, chi fa impresa? L'impresa in questo piccolo paese è vista da sempre non come opportunità per tutti, ma come possibilità di evasione e nel migliore dei casi come un limone da spremere a cui attingere risorse. Date invece la possibilità a chi ha nel proprio DNA la capacità di immaginare, rischiare, di dare un lavoro alle persone, anche di guadagnare, sì, smettendola di concepire chi guadagna di più come un ladro. Noi tutte le mattine rischiamo qualcosa, immaginiamo qualcosa e creiamo qualcosa attraverso i collaboratori. Dateci liquidità, togliete i vincoli che tanto tempo ci fanno perdere e ripartiamo. Ecco, Luca mi ha mandato, commerciante dalla zona di Bergamo, questa lettera accurata con la quale volevo partire. Io proprio a Bergamo voglio andare. A Bergamo trovo il presidente Ipsos Italia Nando Pagnoncelli, che è con noi. Buongiorno Pagnoncelli e grazie. Buongiorno, di essere qui, Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Una Bergamo che è stata raccontata in tanti modi, no? Sta vivendo davvero un momento difficile. Bergamo, Brescia, insomma, sono le province più colpite. C'è qualche dato? Lei è abituato a lavorare coi numeri, coi dati, Pagnoncelli? C'è qualche dato freddo? I dati spesso sono freddi, no? Invece forse c'è bisogno di calore, ma attraverso alcuni dati forse ci può aiutare. Io sostengo che i dati hanno un'anima. Mai come in questa circostanza ce ne rendiamo conto, perché non è soltanto questo bollettino che qualcuno ha definito di guerra. Poi diciamo in questa fase si sprecano anche, come dire, metafore, e la retorica non sempre aiuta la comprensione dei fenomeni. No, il vero problema è che, come sappiamo, il fenomeno è molto diffuso, in misura anche superiore rispetto a questi numeri, perché ci sono molte persone contagiate, ma di cui il contagio non rientra nei monitoraggi, evidentemente, perché hanno avuto la malattia in forma leggera, molti sono figli e così via. Però io credo che quello che diceva Luca, che vi scriveva Luca, sia profondamente vero, perché ci sono piccole storie, piccoli aspetti che però diventano grandi tragedie per i singoli. Provate a immaginare una persona che lascia questo mondo senza nessuno vicino, o ha fatto impressione vedere quella lunga fila di mezzi militari che trasportano i feretri in altre regioni. Ci sono persone che non hanno funerale, ci sono situazioni in molti comuni qui della Bergamasca che sostanzialmente vedono, come dire, un impatto molto forte sul tessuto sociale. Ci sono figure di riferimento, ex sindaci, sacerdoti, responsabili di associazioni locali e così via, che lasciano questo mondo senza avere nemmeno un momento, come dire, di ricordo pubblico, di elaborazione collettiva del lutto. Insomma, è difficile. Questo è terribile. Senta, Pagnoncelli, lei è un grande lettore della politica italiana, con i sondaggi, eccetera. C'è e sta montando questa grande polemica adesso sulla comunicazione, sul modo di comunicare. Però qualcuno dice: guardate che il Presidente del Consiglio, mai come adesso, gode di sondaggi favorevoli. Certo, ci sono i sondaggi anche in questo momento. Questa idea di comunicare, per esempio, a mezzanotte, attorno a mezzanotte, sul sito Facebook, lei come la vede, come la giudica e come la giudicano gli italiani? Molto spesso sì, in queste situazioni, diciamo, l'emergenza può determinare, come dire, comportamenti che non sono usuali. Il fatto di fare una comunicazione così larga, quasi a mezzanotte, può essere necessitato evidentemente dall'emergenza. Quello che voglio dire è che in realtà noi vediamo, lo diceva proprio lei prima, no? Una situazione molto strana, cioè quando succedono queste cose solitamente nei paesi, anche in Italia, c'è una reazione di concordia complessiva, a partire dalla politica. Noi abbiamo avuto una situazione, davvero vi garantisco, noi monitoriamo settimanalmente o due volte a settimana la situazione, le opinioni, i giudizi, gli atteggiamenti, i comportamenti degli italiani, e vediamo che c'è stata veramente una evoluzione molto particolare. Nella prima fase, mi riferisco, sembra lontana mille miglia, ma quando fu deciso di interrompere i collegamenti aerei con la Cina, consenso elevatissimo anche per la decisione e per l'esecutivo. Dopodiché sono iniziate le divisioni. Vi ricordate, no? Quando si diceva no, decisioni troppo dure, l'impatto sull'economia, eccetera, eccetera. Sì. E poi le decisioni non erano abbastanza dure, bisognava aumentare, diciamo, il livello di severità, tra virgolette, delle misure prese per contenere questo contagio. Ebbene, molto spesso le opinioni poi seguono questo dibattito, e è questo che dovrebbe indurci a riflettere. Ci deve essere un senso di responsabilità rispetto alle decisioni che vengono prese. La comunicazione del Presidente Conte, quando quella domenica andò in 16 programmi televisivi, si prestò a molte critiche quando optò per una comunicazione più istituzionale, quindi a reti unificate, con pochi messaggi ma chiari, ha avuto un'impennata di consenso. Quindi l'impennata di consenso lei conferma, cioè, perché sa, ha letto anche lei politici, mi riferisco a Salvini, Meloni, parlare addirittura di tentativo di golpe, chiamare in causa Mattarella, cioè gli italiani sono uniti all'inizio, poi dopo si sfibrano un po' quei tentativi istituzionali di stare insieme e ognuno va per la sua strada, come forse nella politica è legittimo fare. Però in questa fase le divisioni non sembrano rendere molto, cioè non c'è un consenso rispetto a chi in questa fase così delicata e così preoccupante per molti italiani intende, come dire, eccepire rispetto sia alle misure che alla comunicazione che, diciamo, al contesto politico complessivo, almeno a giudicare da quello che noi vediamo. È come se sostanzialmente il paese si fosse molto ritrovato rispetto alle decisioni che sono state prese. Allora intendiamoci, non è facile chiedere a 60 milioni di persone di adottare in modo che traggono tutti insieme le decisioni nello stesso modo, evidentemente. Quindi giustamente i mezzi di informazione stigmatizzano i comportamenti diciamo di coloro che non si attengono alle disposizioni, però sono una minoranza. La maggioranza delle persone in questo momento sta reagendo con grande compostezza, con fatica sicuramente, perché rimanere chiusi in casa non è uguale per tutti, soprattutto per le famiglie più numerose, per chi vive in locali piccoli, eccetera, eccetera. Però la cosa interessante è questa, cioè si ascolta meno quello che è il dibattito, il chiacchiericcio politico, chiamiamolo così. Sì. E in questo momento le persone più dissonanti non sono premiate dal consenso. Beh, questa è una considerazione molto interessante. Io la ringrazio molto, Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos Italia, perché ci aiuta a capire anche l'atteggiamento dei politici e poi insomma ci parla da quella Bergamo martoriata. Che Bergamo sarà quando sarà finito tutto, Pagnoncelli? Spesso si dice Bergamo è operosa, silenziosa, dolorosamente composta, però cambierà anche quella città, forse. Sicuramente sì, sono bergamasco, quindi posso sembrare di parte. Quello che a me ha colpito molto in queste settimane è che comunque si sono moltiplicate tutta una serie di iniziative spontanee o guidate, di volontariato, di raccolte fondi, di persone che si organizzano per fare la spesa o portare i pasti alle persone sole, anziane e così via. Ecco, è una Bergamo che non mi stupisce per certi versi, è una Bergamo silenziosa, ma una Bergamo che mi inorgoglisce molto. Grazie Nando Pagnoncelli per essere stato con noi. Io vorrei a questo punto, cari ascoltatori, chiamateci all'800240024, perché a proposito di polemiche, a proposito di tematiche, ce ne sono anche altre. Una l'ha lanciata Nicola Mumoli. Chi è? È direttore di medicina interna dell'ospedale di Magenta, che oggi su Corriere Milano ha mandato una lettera, Corriere Milano l'ha pubblicata, e scrive il dottor Mumoli: una mia collaboratrice impegnata in questa battaglia pochi giorni fa si è ammalata manifestando sintomi e segni tipici della patologia virale. Le è stato negato il tampone. Invece oggi le pagine della cronaca riportano le buone condizioni di calciatori, attori, politici che esattamente come la mia collaboratrice hanno avuto contatto con persone positive e sintomi da virosi, ma cui a differenza della dottoressa è stato eseguito il tampone e quindi formulato un corretto programma sanitario di controllo. E allora scrive il dottor Mumoli: per carità, grande solidarietà con il personale sanitario, striscioni ovunque, slogan buonisti sbandierati da tutti, ma di fatto solo discriminazione e ipocrisia. E se si deve scegliere tra un calciatore e un medico, non ci sono dubbi e ci sentiamo condannati a sparire sotto quella mascherina che indossiamo ogni giorno con grande fierezza, esercitando un lavoro che mai come ora consideriamo un privilegio, a nome di tutti i miei collaboratori. Ma insomma, effettivamente me lo chiedo anch'io, ma questi tamponi ai calciatori, e quello è positivo, e quello è positivo ma sta bene asintomatico, e quello è negativo, perché tutti questi tamponi vengono fatti in maniera molto molto veloce e invece ai medici no? È una polemica sulla quale vi invito a riflettere. Chiamateci anche per sapere se state lavorando, avete capito se siete in quell'elenco delle imprese produttive che possono continuare a produrre oppure no. Ditecelo all'800240024. L'altra grande questione che leggiamo da giorni sui giornali è il modello sudcoreano. Il modello sudcoreano, basta vedere le curve, in Corea del Sud hanno stroncato il virus. Come l'hanno fatto? Troverete Milena Gabanelli sul Corriere della Sera, paginate sulla Stampa, per spiegare il modello delle 3T, cioè tampone, cosa sono? Una è il tampone, l'altra è le distanze, insomma, e l'altra è la tracciabilità. Attenzione, perché chi parla di modello sudcoreano spesso dice: in Italia c'è una compressione delle libertà e della privacy. Sappiate che in Corea del Sud la privacy credo per un po' di tempo l'abbiano messa da parte, ma ci conferma o smentisce tutto da Busan, Corea del Sud, il nostro professore di latino Vincenzo Campitelli. Vincenzo, buongiorno, buonasera per te. Buongiorno Alessandro, ben ritrovato. Allora, console onorario a Busan, allora questo modello Corea del Sud ce lo puoi spiegare in, non sei un medico ovviamente, ma sei un cittadino, voglio dire, che lì vive, e ci vuoi spiegare esattamente come hanno fatto a stroncare questo fenomeno del virus? Sì, innanzitutto, se me lo concedi Alessandro, un applauso da parte mia a Raffaele Kohler per il silenzio, semplicemente brividi. È un grande. Parlando del modello, il cosiddetto modello sul coreano, guarda, si articola fondamentalmente su due basi, trasparenza e prevenzione. Primo è appunto, come hai anche accennato tu, il discorso della geolocalizzazione dei pazienti, che per alcuni mette a rischio la privacy. Per me, che personalmente vivo qua ormai da 14 anni, mi sembra piuttosto esagerato parlare di violazione della privacy, in quanto è un metodo che hanno sviluppato proprio all'indomani del focolaio principale, quello di Daegu, connesso a sua volta alla famosa setta religiosa Shinjong-ji. Ed è un sistema di messaggistica che arriva a chiunque disponga di un telefono cellulare, dove vengono elencati i luoghi presso i quali sono transitate le persone dichiarate positive. Però non viene indicato il nome della persona, se si tratta di un uomo, di una donna, di un giovane, di un anziano. Viene semplicemente tracciato, vengono semplicemente elencati i nomi delle strade, gli indirizzi ed eventualmente i luoghi in cui queste persone si sono recate, non so, esercizi commerciali, luoghi pubblici, ristoranti o anche semplici abitazioni. Cioè l'obiettivo è tracciare quando si trova un positivo, vedere esattamente tutti i suoi spostamenti prima della manifestazione della malattia, dopo, per blindare tutti quanti. Questo è un po' una compressione della libertà, ma a fine di bene comune. Tra l'altro anche i coreani hanno accettato anche con entusiasmo, quasi tirando un sospiro di sollievo, questa situazione, e a mio avviso è anche testimoniata da dati inconfutabili. Noi parliamo della Corea del Sud, che fino a oggi ha registrato un totale di 8.961 casi, e dei quali 113 purtroppo riguardano pazienti deceduti, 3.166 guarigioni. Nella città in cui lavoro e vivo, qui a Busan, città di 4 milioni di abitanti, i casi totali sono stati in tutto 109, ripeto, 109. No, non so se vi rendete conto che l'ascoltatore, però Vincenzo, qui la tematica che poi lanceremo agli ascoltatori in Italia è: ma sono disposti i cittadini italiani ad accettare questo tipo di geolocalizzazione, tracciabilità, o l'italiano, lo chiedo a te intanto, o l'italiano la vivrebbe secondo te come una limitazione? Tu sei italiano ma vivi in Corea del Sud, quindi hai entrambi i DNA presenti, che ne pensi? Allora, se me lo permetti, due considerazioni. La prima piuttosto immediata, anzi mi scuso in anticipo per l'eventuale banalità. Agisco di buon senso, considerando che parliamo di un'emergenza di dimensioni planetarie. In questo caso, se il buon senso serve ad arginare un problema che può riguardare me in prima persona, mettendo da parte l'eventuale, ma che neanche esiste tra l'altro, violazione della privacy, io personalmente sarei entusiasta se questo metodo venisse anche applicato in Italia. E qui perché questo è il tuo DNA sudcoreano, che sì, evidentemente è entrato dentro di te, insomma, disciplinato. Però c'è anche un altro frammento di DNA sudcoreano che è entrato dentro di me e riguarda anche il modo in cui i sudcoreani hanno vissuto il picco di questa emergenza tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Qui da noi, ripeto, Alessandro, non voglio mettermi a paragonare il modo di vivere l'emergenza da parte dei coreani con quella degli italiani, anche perché sono italiano anch'io. Ma qui, da quando è scattato l'allarme, tutti i cittadini, tutti i coreani hanno rispettato alla lettera i dettami del governo. Che significa restate in casa, evitate uscite magari non strettamente necessarie. Questo ha portato a due vantaggi. Il primo, come dicevo prima, anche nelle città, nelle metropoli di 4 milioni di abitanti come Busan, non si sono registrati numeri allarmanti. In secondo luogo, ciò ha favorito il paese a livello generale, perché non è stato necessario passare alla fase lockdown. Ora, l'unico problema riguarda i cosiddetti focolai minori, che possono essere, ti faccio un esempio, call center, chiese, palestre, esercizi di ristorazione, per i quali il governo ha deciso proprio nella giornata di ieri di invitarli alla chiusura fino al 5 aprile in via preventiva. Insomma, Vincenzo, facciamo così. Intanto ci hai dato uno spaccato molto interessante. Io ti ringrazio da Busan per la Corea del Sud, per questo modello sudcoreano che adesso si dice anche in Italia si vorrebbe adottare. Ecco, non si capisce perché in Italia c'è sempre questa idea di passo passo, un passetto alla volta. Se si vuole adottare un metodo, quello sudcoreano, forse andava adottato 20 giorni fa, un mese fa. Vabbè, ma non voglio fare polemiche, diciamo. Chiedo agli ascoltatori, lo accettate con queste limitazioni del caso, o c'è un ascoltatore che mi scrive: bisognerebbe utilizzare anche i droni via SMS, lo fanno credo già da qualche tempo nel comune di Forlì. Lo accettate? Chiamateci all'800 24 0024. Saluto anche Stefano da Rimini che dice: sono carrozziere, posso lavorare ma non ho ricambi e clienti che non si muovono, e quindi tra l'altro credo non avrò neanche agevolazioni fiscali. Scriveteci anche se state lavorando e chiamateci. Un attimo di pubblicità e poi Vestagliona Manera. Ho detto a Radio Londra che Manera è arrabbiato, scopriremo perché. Vai Alpino. State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma delle mafie che in questa situazione fanno speculazioni nelle pompe funebri, nell'agroalimentare, nei trasporti, nei rifiuti, nei servizi di pulizia, nessuno ne parla? Una cortesia, io non capisco che la ditta dove lavoro io, che fa tubi in plastica che non servono a niente di necessità, stiamo lavorando con un ragazzo a casa che ha contagiato il coronavirus. Due settimane fa, senza mascherina, e non capisco come mai adesso noi lavoriamo ancora. Non ha senso la cosa, tutti vicini, non ha senso. Ma perché? C'è qualcuno ancora che crede nella privacy? Ben venga Corea, ma io me ne frego della privacy, me ne frego proprio. Va bene, questi sono i nostri ascoltatori. Io ho detto nel messaggio iniziale di Radio Londra: Leonardo è arrabbiato. Caro Leonardo Manera, Vestagliona, buongiorno. Buongiorno a tutti, buona giornata. Allora, un po' di ottimismo nonostante tutto, no? No, dici, perché sono arrabbiato? Tu, con la amarezza. Vabbè, vai, allora, Leo, più che arrabbiato sono un po' preoccupato, perché con le nuove norme emanate sabato sera non ci si può spostare da un comune all'altro se non per esigenze sanitarie o comprovate urgenze. Allora io mi chiedevo, essendo un padre separato, io abito a Milano, mio figlio ha la collocazione prevalente presso la madre che è a Brugherio, un comune a 10 chilometri da Milano. Ecco, mi chiedevo se nel supremo interesse del minore, come dicono sempre gli avvocati, il minore ha comunque diritto a vedere entrambi i genitori, spostandosi in questo caso da un comune all'altro, uscendo io da casa mia, andandolo a prendere davanti alla porta di casa e riportandolo poi qui, oppure no. Questa è una cosa sulla quale Non si è capito. Io credo che tu ne abbia diritto, ma è un diritto, vuol dire che ti lo dico, cioè parla più l'affetto e il cuore, non lo so, non parla la legge in questo caso, non lo so, però effettivamente non si sono posti questo problema, è incredibile se, se non fosse consentito, è incredibile. No, ma il paradosso è che magari una persona, adesso per chi non conosce Milano, ma io abito diciamo in zona Lambrate, magari una persona che ha il figlio che sta a Bandenere, che è a 10 chilometri da Milano, da dove abito io, ma sempre dentro Milano, può andare, invece uno che abita ugualmente la stessa distanza ma che in un altro comune non può andare. E poi non c'è l'altro problema, secondo me, di cui bisognerebbe un po' parlare, sono degli alimenti, dei genitori separati che magari non lavorano più e però sono costretti lo stesso a versare per intero gli alimenti all'altro coniuge in una situazione di difficoltà. Sì, questo, su questo se andrebbe pensi, fatto un po' di chiarezza. Sì, se ci pensi è un po' la questione anche come di coloro che dicono non lavorano, non fatturano, ma devo pagare l'IVA, vero, adesso è stata sospesa, però è interessante, insomma, è chiaro che in questa situazione di emergenza ci sono tanti elementi che andrebbero chiariti. Tu lo vorresti il modello Corea del Sud, cioè tracciabilità controllo delle celle del telefono, verifica di dove ti sposti, così loro hanno bloccato tutto. Ma io sono già d'accordo con la signora che ha mandato l'ultimo WhatsApp, insomma, veramente crediamo ancora alla privacy, quando basta fare cercare una cosa in internet e il giorno dopo ci arrivano tutti gli avvisi che riguardano quel tipo di materiale, insomma, già la privacy non c'è più. La privacy non c'è. Anche non tra, c'è, anche vabbè. Tra, ma non esiste, la privacy non esiste. No, mi piace è tornato il Manera amaro, ma no, ma in questo caso ha anche ragione, va bene, ma Leonardo, vogliamo salutare? Certo, sì. Dicevo solo che questa mia preoccupazione riguardo a mio figlio non è, certo, perché io mi preoccupo di non poter più vedere mio figlio per mesi, ma anche perché è nel diritto del minore, no? Avere a che fare con entrambi i genitori, tanto più in un momento difficile come questo, posto che non è che poi vado con lui a fare chissà cosa, stiamo in casa. Questa tematica giriamola a Matteo Lancini, che è con noi. Matteo Lancini è uno psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro a Milano, ha anche scritto un libro, adesso ne parliamo, dal titolo Cosa serve ai nostri ragazzi, edito da UTET, per capire anche questi ragazzi che fanno in questo momento. Lancini, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Cosa risponde a Manera e a tutti i papà e le mamme che sono in questa situazione? Guardi, io mi occupo di affetti in questo momento, sulle interpretazioni delle leggi, litigo con me stesso, in famiglia e con tutti anche i colleghi, è una situazione che richiede chiarimenti, perché le ordinanze, che mi sembrano anche abbastanza precise, ma sono soggette a molte interpretazioni, è chiaro che in una situazione come questa le contraddizioni sono enormi. Penso che però quello che dice Manera è un'attenzione agli aspetti affettivi che bisognerà tenere in considerazione, perché certamente in questo momento è prioritario l'aspetto medico, ma non è che gli affetti non contino niente, quindi il restare a casa, che ovviamente anch'io mi metto a sottolineare, è un aspetto che però richiede anche di parlare delle difficoltà di farlo, ad esempio ai propri figli, ai ragazzi, e credo che questo sia uno degli aspetti su cui in questo momento gli adulti dovrebbero essere autorevoli. Quello che mi è preoccupato di più è vedere molto spesso lettere in questo momento, mail inviate anche in prima pagina su tutti i giornali, in cui agli adolescenti li tratti come dei bambini, infantilizzandoli. Invece bisogna avere in mente che gli adolescenti hanno, come dire, delle esigenze evolutive, non sono bambini, anche se non sono ancora adulti, e meriterebbero dei discorsi sulla responsabilità meno infantilizzanti di quelli che ho sentito in questo periodo. Questo è un grande tema, perché lei, un po' controcorrente rispetto alla vulgata, dice che gli adolescenti, i ragazzi, le ragazze hanno gli strumenti per capire intanto cosa sta succedendo, magari hanno un modo di reagire che, visto da noi adulti, viene tradotto in ti sembra di essere in vacanza, non fai niente, sei lì buttato sul divano. Come facciamo a capirli meglio questi adolescenti? Ma guardi, gli adolescenti, bastava sentire anche il papà Manera che parlava prima, sono ragazzi cresciuti con padri anche affettivi, molto relazionali. E già non mi ha mai convinto questa idea degli adolescenti invincibili, che ho sempre sentito dire anche adesso. L'adolescente scopre, proprio per lo sviluppo cognitivo e per le trasformazioni in atto, che si è tutto meno che invincibili. Sarà ora che si dica che chi si sente onnipotente e invincibile è il bambino, non l'adolescente, che ad esempio scopre che è mortale e capisce benissimo anche in questa occasione quanto la morte sia vicina. Quindi bisognerebbe andare avanti con gli adolescenti tenendo conto di questi modelli educativi che abbiamo costruito, quindi esperti di relazione e capaci, a mio avviso, se convocati, ad assumersi delle responsabilità. Troppo spesso, ripeto, l'adolescenza è confusa con l'infanzia, vengono infantilizzati, vengono trattati come dei soggetti, non parliamo di quello che ho sentito sulla pericena, una cosa che è veramente intollerabile, che gli adolescenti odierni se ne fregherebbero dei nonni. È chiaro che prima delle ordinanze eravamo tutti in giro, quell'8 marzo, il sabato, prima di sapere che cosa stessero accadendo. Appena l'abbiamo capito, anche gli adolescenti si sono chiusi in casa, ma sentire in dire che se ne fregano dei nonni, le generazioni degli adolescenti odierni adorano i nonni, si tatuano la data di morte dei nonni sulla pelle, sono quelli che li hanno cresciuti, li hanno presi all'asilo, gli hanno fatto fare i sonnellini in braccio mentre noi genitori lavoravamo. Vedere i titoli dei giornali, anche esperti che dovrebbero però occuparsi della loro materia, non di affetti, se non sono esperti. Dire che gli adolescenti se ne fregano dei nonni vuol dire non aver mai incontrato un adolescente delle ultime generazioni. I miei figli infatti li adorano. Vai, Leo. Ma forse anche noi siamo, anche gli adulti vengono un po' trattati come bambini che non riescono a capire. Quando per dirci di stare a casa devono farci vedere tutti i video dei cantanti che ci dicono che stare a casa è bello, che si possono fare tante cose, eccetera, eccetera, invece semplicemente di dirci che bisogna stare a casa per non diffondere il virus, cercano di, come dire, addolcire la pillola e trattarci come bambini che hanno bisogno dei balocchi per rimanere a casa perché non siamo in grado di capire. Io ho un po' questa sensazione. Guardi, io faccio l'esempio su internet. Fino a poco tempo fa, proprio questo, gli adolescenti erano dei rimbambiti su internet e l'unica cosa che contava era spegnergli lo smartphone mentre entravano a scuola, lo scrivo anche nel libro, e togliergli la PlayStation a casa. Oggi improvvisamente, se non stanno davanti a 6 ore di schermo la mattina a seguire le video lezioni, si rinstupidiscono. C'è delle contraddizioni della nostra società che abbiamo creato, non è giusto che vengano, come dire, proiettate sugli adolescenti. Oggi gli adolescenti hanno bisogno di essere responsabilizzati. Pensi che nel libro io dicevo che il mio sogno era che si arrivasse a fare una maturità, mai mi sarei immaginato di questa accelerata, tutti collegati online, perché ancora oggi io penso che valutare le competenze solo in base al fatto che tu non debba copiare è troppo limitato per quello che serviva nel mondo del lavoro. Ovviamente il libro è stato scritto senza sapere quello che sarebbe accaduto, certo, potrebbe essere che questo sogno arrivi adesso. Cioè oggi è un momento, a mio avviso, rispetto a quello che diceva anche in maniera prima, in cui bisogna anche parlare della fatica, della morte che a volte è spettacolarizzata, non dire che va tutto bene con letterine del dire siamo una famiglia contenta, riscopriamo, perché questo è un momento difficile anche per i genitori possono anche piangere, lo vedo io in famiglia, lo vedo con tutti i pazienti che ormai seguiamo a distanza davanti alle difficoltà che si incontrano, e non è che piangono ovviamente distrutte le madri medico che incontriamo, ma anche le madri che tutti i giorni devono fare delle acrobazie. Quindi in questo momento io credo che piuttosto che discorsi infantilizzanti sia un'occasione quella di parlare delle difficoltà, degli inciampi che fanno parte della vita e della fatica, ma anche, ed è questo, promuovere attività più aggiuntive e responsabilizzanti con questi adolescenti. Cioè gli adolescenti hanno bisogno di sentire che li si responsabilizza, non che li si infantilizza, e quindi anche dei compiti di responsabilità in casa. È chiaro che vanno fatti, messi a punto in base ai loro talenti, alle loro passioni, le cene preparate o il pranzo, ma non così ma tanto, proprio in questo momento qual è il talento che tu metti a disposizione, fagli fare i compiti dei fratelli, piuttosto che vedo certo. Tantissime iniziative che provengono dai genitori, compreso, mi lasci dire l'ultima che trovo interessantissima, ragazzi che uno, mentre la scuola si organizzava, hanno trasformato chat di battaglie in rete, ad esempio alle medie, in chat di classe, dando l'amministratore, facendo diventare amministratore il docente di turno intanto che la scuola si organizzava, ma poi anche aiutarli magari a fare delle chat di palazzo o addirittura aiutare a fare le spese online ai nonni, agli anziani che vivono nel proprio quartiere. Insomma, la chiave è responsabilizzarli, non trattarli da bambini, perché capiscono, i bambini sì, ma insomma quelli che già diventano adolescenti, trattarli da adolescenti, responsabili, guidarli ma responsabilizzarli. Questo mi sembra la ricetta giusta. Noi Lancini però ci dobbiamo salutare perché siamo un po' in ritardo con il traffico. Ringrazio Matteo Lancini, ricordo il suo manuale Cosa serve ai nostri ragazzi per UTET, i nuovi adolescenti spiegati a genitori, insegnanti, adulti. Ovviamente lo trovate sulle librerie online, in questo momento le librerie sono chiuse. Caro Leonardo, dobbiamo andare, devo dire che hai scatenato un po' il putiferio, perché sai che molti, anche un po' critici, dicono ma insomma se è una guerra, pensa quando i genitori andavano in guerra, non vedevano i figli per anni, oppure dicono per il bene di tutti bisogna un po' rinunciare. Queste sono le critiche, c'è anche allora, chi dice certo, che invece può rimanere fare. Aperto il tabaccaio, però io se esco di casa, prendo mio figlio, lo prendo davanti a casa sua e lo riporto indietro, non lo posso fare. Va bene, se va la bene. Pensate così. No, avete ragione voi, non è ragione, è un dibattito, lo prendo davanti alla porta, lo riporto a casa e non posso farlo. Il tabaccaio magari per vendere le sigarette sì, Allora, se, e non è poi un discorso mio, come dicono appunto gli avvocati, nel supremo, nell'esclusivo interesse del minore per vivere questo periodo così. Di difficoltà con entrambi i genitori. Vabbè. Dillo così, più fumo, più affetto, meno fumo, meno tabacco, ecco, più affetto, meno fumo, urlalo al balcone, più, vai, dai che andiamo al traffico col tuo urlo, dai, urlalo, meno fumo, più affetto. 1, nessuno, 100 Milan. Ma che hai perfettamente ragione su questo scandalo dei tamponi. Ma non c'è nessun giornalista che a Borrelli glielo chiede in diretta nazionale, perché sennò quel giornalista alla conferenza stampa del giorno dopo non ha più l'accredito, non ci va più. Noi stiamo lavorando dalle 12 alle 15 ore al giorno, tutti i giorni. Noi chi? Noi che portiamo le bombole di ossigeno, soprattutto nel bresciano e nel bergamasco. Se pensiamo a quanta gente sta a casa e al fatto che noi abbiamo bisogno di personale perché non riusciamo a stare dietro alle consegne, bah, mi fa pensare un po' questa cosa. Eh sì, questa devo dire grazie caro ascoltatore, non so il tuo nome, non ce l'hai detto, grazie a nome, ringrazio te per ringraziare tutti coloro che fanno le consegne. Leggevo oggi un articolo, le consegne dell'ossigeno a domicilio sono aumentate in maniera spaventosa ovviamente nelle province, soprattutto di Bergamo, Brescia, ma non solo. Come, mi scuso, non sapevo, ci sono le librerie tradizionali che fanno le consegne a domicilio, quindi il libro si può prendere anche lì per chi si è organizzato il consegna a domicilio. È un'Italia che resiste, Vogliamo sentire Fabio dalla provincia di Lucca prima delle considerazioni di Leonardo. Fabio. Ciao, buongiorno. Eccoci. Allora, io sono un collaboratore domestico e non so se oggi sono un fuorilegge o no, perché io sono venuto al lavoro. Le spiego, oggi come oggi non si sa. Siccome le spiego, io faccio il giardiniere, sono solo nel posto dove lavoro. Cioè io faccio la manutenzione del parco di una villa e sono solo io. Il problema è che se io mi fermo un mese, il mio lavoro di anni va certo, salta. È certo. Quindi no, è perché l'unica le piante cosa è che non è che aspetta. È un materiale organico, è in continuo deterioramento. Ora, l'unica cosa, io non c'è molta chiarezza per noi collaboratori domestici. In realtà è stato chiarito, che l'abbiamo sentito anche il giornale radio, che babysitter, collaboratori domestici possono, rientrano nelle categorie di coloro che possono andare a lavorare, non sono quelle attività produttive, chiamiamole così in maniera brutale, che sono state chiuse, quindi è in regola. Fabio, ecco, la volevo tranquillizzare. Il commercialista ieri l'ho vista molto in crisi. Anche oggi, perché forse hanno fatto un annuncio attorno a mezzanotte sabato e poi il decreto è stato fatto ieri alle 20, quindi fino, se lei ha chiamato tra l'altro la commercialista prima delle 20, non c'era un decreto, quindi non c'è una pezza d'appoggio su cui leggere una lista. Anche questo, insomma, è un tema un po' chiaro. Comunque, ma la colpa, grazie Fabio, è in regola. Comunque. È in regola. La colpa è dei runner, diciamo che e prima dei runner colpa... e dei padri che vanno a Brugherio e dei padri, sì, che esatto, vanno a Brugherio. Adesso riusciamo sempre a identificare la colpa di qualcuno, no? Prima era dei cinesi, sì, Adesso dei runner. Vabbè. Caro Leonardo, Peter, fammi partire la base, va. Diario dal coronavirus. Allora, ormai il coronavirus è una realtà. Per qualche mese abbiamo pensato che fosse solo un problema della Cina e dei cinesi. Ci sembrava lontana la Cina e pensavamo che quelli là, i cinesi, erano proprio strani. Lavoravano sempre, non morivano mai, friggevano tutto, mangiavano i cani e gli insetti. Noi non abbiamo mai pensato che un cinese potesse mangiare, che so, una bella bistecca o una caprese. Per noi un cinese che mangiava una bistecca o una caprese non era un vero cinese. Nel nostro immaginario il cinese va a prendere apposta gli animali che o sono animali da compagnia, cani, gatti, oppure sono quelli con l'aspetto più disgustoso, li frigge e li mangia con le bacchette. E ci siamo sempre chiesti: ma se ci sono le forchette che sono così comode, così semplici da usare, ma perché i cinesi devono usare le bacchette? Perciò i cinesi ci sono sempre sembrati gente strana. prima i cinesi li vedevamo come degli extracomunitari che si facevano i fatti loro qui in Italia. Noi prima del coronavirus il cinese in Italia l'abbiamo sempre considerato utile perché era economico. Il barbiere cinese costa meno del barbiere italiano. Il ristorante cinese costa meno del ristorante italiano, il centro massaggi cinese costa meno del centro massaggi italiano e magari ti dà anche qualcosa in più. Insomma, prima del coronavirus i cinesi soprattutto ci facevano comodo, ma ci sembravano troppo lontani da noi come usi, costumi, modo di vivere. E allora abbiamo pensato, se anche c'è un virus nato in Cina, sicuramente riguarderà solo i cinesi, non potrà mai diffondersi qui da noi, in Occidente, nel nostro bel mondo evoluto, libero, pieno di weekend, di ponti, di happy hours. Un virus nato in Cina non può arrivare, perché lo stroncheremo subito, perché un virus di quel tipo può forse nascere là, dove mangiano i topi vivi e i pipistrelli morti, ma qui da noi, dove mangiamo il maiale, il manzo, il vitello, le rane, la trippa, le interiora, a noi che siamo evoluti, fino a noi quel virus non può arrivare. Perché noi, pensavamo, siamo più evoluti di loro. Certo, anche noi mangiamo la carne di tanti animali, ma poi, per ripulirci il corpo e anche l'anima, siamo disposti ad andare in un ristorante vegano e a pagare 80 euro per due zucchine, tre melanzane impiattate bene. Perciò, visto che siamo così evoluti e intelligenti, che paghiamo magari 80 euro per due melanzane, tre zucchine impiattate bene, il coronavirus non potrà certo arrivare ed eravamo relativamente tranquilli. Infatti i primi casi in Italia sono stati, guarda caso, di due cinesi, una coppia venuta in vacanza in Italia ma che arrivava dalla Cina. E allora, ancora tranquilli, abbiamo continuato a fare la solita vita, a fare i nostri happy hour, mettendo le mani tutti insieme in quelle vaschette piene di bruschette, di patatine, di crostini, di salsine, sicuri che ormai, anche grazie agli happy hour, noi eravamo immuni a qualsiasi tipo di virus. Perché nelle vaschette degli happy hour c'è di tutto, anche il colera a pezzettoni, ma ormai non ci fa più effetto a forza di aperitivi, perché l'happy hour vale più di qualsiasi vaccino, pensavamo. Finché poi è arrivato il paziente 1. Non un cinese che vive in Italia, neanche di una grande città, di Roma o di Milano, ma di Codogno. La maggior parte degli italiani non sapeva nemmeno dove si trovasse Codogno, ma lì ha cominciato a suonare il primo campanello d'allarme e da lì in Italia è cominciato tutto. Vuoi andare a prendere Beniamino solo per schiavizzarla a fare le pulizie di casa? Questa è la verità, perché c'è un po' di sporco, c'è il panno da passare, c'è, no? Questa è la verità. Sì, effettivamente verità. Mi ha aiutato l'altro giorno e siccome sono pigro vorrei che venisse per farlo lavorare, in effetti è vero. Cioè, abbiamo appena parlato con Matteo Lancini della responsabilizzazione dei ragazzi, certo. Eccetera. Tu lo responsabilizzi con lo straccio e lo scopettone in mano. Questo è. Ma quale modo migliore per responsabilizzare un figlio? A dire guarda che dobbiamo collaborare entrambi nella pulizia della casa. Quindi tu pulisci e io ti dico se hai pulito bene. Questa è la mia forma di collaborazione. Comunque, allora. Ci sono tantissime mail che ci arrivano riguardo a varie categorie, chi lavora nel food, nella ristorazione. Noi, se possiamo, ci occupiamo un po' di tutto. Nella seconda ora ci occuperemo, per esempio, di tutti coloro che hanno dei disabili in casa, disabili a volte gravissimi. Cosa fanno? Ne parleremo tra poco. Però, Leonardo, il tuo messaggio, guarda, che meno fumo più affetto, o più affetto meno fumo, ha colto moltissimo nel segno. Dai, rimettiti alla finestra, lo faccio anch'io, dai. Guarda, apro la finestra qui. Più affetto, meno fumo. Vabbè, l'hai detto signora tu, di fronte, ma la signora di fronte ha agitato la scopa nei miei confronti dicendo, come dire, vai vai Leo, vai al giornale radio tu così, dai dai, un bel urlo. Meno fumo, più affetto. Vabbè, vai Peter. Il segnale orario vi è offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, Manera ha perfettamente ragione, sono d'accordo con lui. Il problema è che in Italia ci sono troppi furbi. Viva Manera! I bambini sono più importanti dei tabaccai. Leonardo, hai assolutamente ragione, dai. Tabaccai aperti per i fumatori e i giocatori compulsivi, edicole aperte per gli anziani che vanno a prendere il quotidiano cartaceo. Dai, non ha senso, dai, ragazzi. Vabbè. No, dai, però adesso hai ragione nella prima parte, caro ascoltatore, però adesso non è che perché facciamo i giornalisti, ma le edicole, l'informazione, è bene che siano aperte i giornali, l'informazione, poi uno può criticare i giornali, però dai, su, le edicole rimangano aperte. Hai visto, Leonardo, quanto affetto? Senti qua la risposta, sfida Lucchetti, risposta al lettore dell'Eco di Bergamo, una risposta: se un papà o una mamma devono andare a prendere il figlio dell'ex coniuge, possono? Sì, a patto che non avvenga con frequenza sospetta e che sia giustificato da provvedimenti del tribunale. Sì, a patto che, forse. Come dicevo io, proprio... dice un meglio di no, però sì, a patto che, però non chiarisce la risposta se si viene e va da due comuni diversi. Ecco, questo sì, forse non era chiarito. Va bene, insieme a Giovanni Cupidi, ripeto, autore del blog Siamo Handicappati No Cretini, ci sta parlando di tutte le difficoltà, di tutti i servizi sospesi per chi ha un figlio disabile in casa. Voglio salutare anche Stefano Geller. Stefano, come stai? Ciao Alessandro, ciao Leonardo. Ciao. Eccolo qua. Io sto bene, per ora tutto a posto, un po' preoccupato per mia mamma, perché nella casa di riposo è in quarantena e ci sono già stati 3 decessi di ospiti. Accidenti. Beh. Ricordiamo, Stefano Geller ha questa distrofia facioscapolo omerale ed è una malattia molto invalidante. Lo abbiamo anche seguito perché il suo sogno è andare a New York, fare questo viaggio. Oh, è solo sospeso tutto questo sogno, Stefano. Tanto se vai a New York è tutto chiuso, a parte che non ci puoi andare adesso. Sì, è sospeso, però speriamo, dai. Sì, devi. È la salute di tutti noi, ecco. Sì, Stefano, visto che Giovanni Cupidi ci ha detto, per esempio, lui in Sicilia 0 telefonate dagli assistenti sociali del suo comune, tu sei seguito? Ci sono dei volontari che vengono, vengono anche adesso? Sì, le host vengono anche adesso, mi hanno solo fatto firmare una carta dove io accetto di continuare il servizio sotto la mia responsabilità. Certo. E l'umore come va invece? L'umore come va? Ma l'umore, io sono tra virgolette abituato a stare a casa, quindi mi costa meno degli altri, perché ho passato tutto l'inverno a casa per paura anche della semplice influenza. Vorrei dire a tutti gli italiani di tenere duro, e che questa cosa finirà, passerà. Che tra l'altro volevo dire, lo so che non siamo abituati a stare a casa, ma mia mamma è da 7.000 giorni che è in una stanza, quindi insomma 7.000 giorni, certo. Quasi 19 anni, insomma. Terribile. Giovanni Cupidi, tornerai per la Sicilia. Non è facile gestire l'Italia in questo momento di crisi, la più grave dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quanti sono i numeri delle persone con disabilità che avrebbero bisogno anche di assistenza continua e quanti secondo te sono coperti? Comunque Stefano Geller ci ha detto che fortunatamente continuano le assistenze ai suoi confronti, Cupidi. Ma io posso parlare un attimo per la Sicilia. Come dicevo poco fa, i servizi sanitari sono quelli che stanno soffrendo di più. In questo momento sono uno dei pochi che ancora ha un servizio di assistenza sanitaria, ma moltissimi sono sospesi, perché poi dipende anche a quale centro e a quale cooperativa, a quale tipo di servizio ogni persona afferisce, perché non è uguale per tutti. Resta il fatto che le persone, voi fate conto che le persone che hanno una gravissima disabilità in Sicilia sono circa 11.000, e tutte queste hanno bisogno di un'assistenza continuativa. E quanti ce l'hanno adesso, secondo te, di questi 11.000? C'è un'idea di quanti? Questi 11.000, grazie al lavoro che abbiamo fatto col comitato di forte pressione negli scorsi anni, quantomeno stanno ricevendo l'assegno di cura, con cui sicuramente stanno riuscendo a garantirsi un po' di alcune ore di assistenza al giorno, ma le problematiche sono tantissime, perché si va dall'interruzione, ad esempio, anche dell'assistenza didattica per i ragazzi che vanno a scuola, che hanno una disabilità. Giusto. E vanno a scuola e sono a carico dei genitori, si va da chi ha bisogno di assistenza continuativa H24 e se ha la fortuna di avere dei parenti che lo assistono, buon per lui. Mm-hmm. Altri, come ad esempio io, se non avessi se non continuasse il tipo di assistenza, io vivo solo con mia mamma, non potrei avere nessuno. Quindi è proprio perché le problematiche sono tantissime che c'è bisogno di un sostegno da parte delle istituzioni, e capire quali sono le situazioni che hanno bisogno di continuare, di una continua assistenza, che questa non vada interrotta, anche se c'è un pericolo così grave come quello. Sì, anche se c'è un'emergenza, se c'è un'emergenza, sì, di questo certo. Sì, perché rimanere abbandonati è pericoloso tanto quanto il virus. Allora, io ringrazio Giovanni Cupidi, ringrazio Stefano Geller, ci sentiamo nei prossimi giorni. Tra l'altro, caro Leonardo, non so se hai sentito il traffico su Radio 24 è straordinario in questi. Non c'è traffico. Questo è praticamente il messaggio che c'è. Le strade sono libere, le autostrade sono deserte. Grazie, eppure, ci sentiamo tra mezz'ora. Eppure continua ad andare in onda. Si vede che è un servizio. Aspetta che scollegati un attimo che c'è dei problemi. No, questo mi ha fatto venire in mente, perché io ieri ho lanciato questa idea dicendo: ho provato a fare una lista delle cose positive in questa tragedia, e pensavo proprio meno traffico, meno inquinamento, meno rumore, meno frenesia, meno spacciatori, più tempo per leggere, meno socialità inutile, ho riscoperto il Monopoli e ho chiesto alla gente di allungare questa lista. Guarda, mi hanno scritto il tempo per far colazione, per cucinare, giardinaggio, più tempo per pregare, più esperimenti culinari, più tempo per riflettere, più rumore della natura, meno furti, meno capitalismo, uno mi ha scritto, meno incidenti, è vero, meno incidenti d'auto. Vedi, hai meno utilizzato ladri. Il metodo, sì. Hai utilizzato, sì, il metodo Robinson Crusoe. Sai cosa, sì, ha fatto, esatto, no? Sì, sì, la sopravvivenza, cioè la lista. No, la che lista. Quando lui fa la lista delle cose negative, che però comportano anche un elemento positivo. Delle cose positive. Non mi mangio più le unghie, ha scritto un ascoltatore, quando dicono di non portare le mani alla bocca. Niente incubo della sveglia. La gente è così, mi ha scritto tante cose. Più possibilità per conoscere noi stessi. Acqua azzurra Venezia, delfini a Cagliari. È anche un rischio, ecco. Conoscere meglio se stessi diventa un gran casino, se poi ti scopri per veramente come sei e arrivi a odiarti. Pensa se ti stai sui coglioni, cioè capisci? Sì, che è veramente dura un po'. E quello è il rischio per quasi tutti, tra l'altro. E poi c'è più giochi in casa, Federico Taddia, no! Federico! No! Buongiorno Fede. Buongiorno. Più giochi in casa. Ma comunque è vero, adesso le so come battuta, ma è vero, stanno aumentando tantissimo le ore passate sui giochi in scatola, i giochi di società, i giochi di carte, insomma, quindi c'è veramente risico, tabù, visual game, insomma, i grandi classici, ma non solo, perché ci sono anche tanti giochi nuovi che sono molto molto belli. Un'idea anche oggi, credo ci sia poco tempo, forse giusto per un'idea. Perfetto, allora continua la sezione giochi olimpionici da fare in casa. Oggi giochiamo con la marcia. ok? La marcia. Tanto mi dico dalla regia c'è spazio solo per uno, quindi perfetto, facciamo questo, okay, la marcia. Di marcia, è un gioco che mi è stato suggerito dai frigor che comunque sono molto pieni in questo periodo e quindi succede a volte che un frutto, un ortaggio vada male, faccia un odore strano, no? Lo devi andare a recuperare, a me è successo ieri l'altro con una banana troppo matura, ormai marcia e quindi l'ho dovuta tirare fuori dal frigo. Allora, il gioco funziona così, bisogna prendere un ortaggio marcio, sì. Quindi, okay? che metta odore, nasconderlo in una stanza, ok? Sì. E l'oggetto va trovato senza toccare nulla, ovvero cioè, solo usmando. Cioè, okay? Quindi è la marcia in questo senso, cioè, certo. Usmare il marcio. Beh, un pomodoro, una cipolla andata male, sì. Voi la nascondete sotto un cuscino, dietro a una tenda, e poi scatenate, sì, poi... bambine e bambina la Leonardo, ricerca solo annusando. Il tuo mezzo melone, potresti usare questo. È un gioco bello, il problema è che in tutte le stanze di casa mia c'è cattivo odore, quindi non saprei dove andare. Vabbè, Federico, ci riproviamo domani con un gioco anche che vada bene per Manera. Vai Manera, fai l'urlo di battaglia, apri la finestra, più pieno affetto, fumo, più affetto.